pomeriggio a tutte e a tutti, siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa e come ogni giovedì che si rispetti alle 16 puntuale inizia una nuova puntata di Attica Blues. Oggi 25 marzo, prima puntata primaverile per noi e quindi una puntata tutta da ballare dedicata ai 12 pollici prodotti e remixati in Giamaica. Una puntata tutta musicale, quindi noi iniziamo subito con un genio della musica giamaicana che lo scorso 20 marzo ha festeggiato il suo 85esimo compleanno. Parliamo di Lee Scratch Perry, che ormai si divide tra la Giamaica e la Svizzera. Iniziamo subito con un suo splendido 12 pollici, questa Disco Devil, uscita e prodotta da Adrian Sherwood della ONU Sound. Lee Scratch Perry insieme ai Dub Syndicate, Disco Devil. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Make him get it up. If you singolo da 12 pollici è un tipo di vinile che ha una spaziatura dei solchi più ampia e un tempo di riproduzione più breve, con un singolo o alcune tracce audio correlate su ogni superficie rispetto agli LP che hanno diverse canzoni su ogni lato. Questo spazio extra consente una gamma dinamica più ampia e un livello di registrazione più alto, poiché le distanze dei solchi possono essere molto maggiori in ampiezza, specialmente nelle frequenze basse, importanti nella musica da ballo. Andiamo avanti con un 12 pollici a firma di Barney Spear, prodotto dalla sua etichetta. Questa è Jano Dead, brano contenuto anche nella colonna sonora del film Rockers, in cui si vede lo stesso Barney Spear cantare questo brano seduto su uno scoglio a cappella. To fool the black population by telling them that charge a day. And they try to fool the black population by telling them that charge a day. High and I knows down, Jano Day, Jano Day, Jano Day. Jano Day, Jano Day, Jano Day, Jano Day, Jano Day, no, no, Jano Day, Jano Day, Jano Day. A rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, democracy. A rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, democracy. Jano Day, Jano Day, Jano Day. Jano Day, Jano Day, Jano Day, Jano Day, Jano Day, no, no, no, Jano Day, Jano Day. Jaja, I sweet in here, you're gritty, you fight integrity. If Jaja live for ice, I Jaja, I sweet in here, you're gritty, you fight integrity. Jano Day, Jano Day. Spier, passiamo al principe del reggae Dennis Brown con questa sua Let Love In, un brano del 1971, e invece questa è la versione in 12 pollici rilasciata in Inghilterra dalla Burning Sounds. Dennis Brown. Dal 1976 la tendenza dei singoli da 12 pollici si diffuse in Giamaica, dove centinaia di singoli reggae furono stampati in questo formato e commercializzati come disco mix per catturare le esigenze dei sound system. Giamaica comunque aveva già una lunga tradizione delle version con dei brani, dei singoli che poi venivano aggiunti a una versione dub o una versione strumentale in cui i cantanti del DJ style potevano esibire il loro toasting. E allora noi ci ascoltiamo proprio uno di questi, il brano è di Corney Campbell e si intitola Two Timer, e invece in questa produzione di Joe Gibbs del 1980 vede anche l'apporto di Trinity in una versione DJ style. Yeah, again. Become two times your friend. Yeah. If you spit in the sky, it will fall in your eyes. Two times on each time. Then you lead for Mr. Gibson, Mr. Cheater, man. y'all sing on Mr. Cheater Man. Can't let me teach you, Mr. Cheater Man. Come, Mr. Cheater Man. Gone in a firing, boy, you gone for video. And you gonna look some trouble. Me say they cheat by your enemy, you cheat by your bikini, you cheat by your friend, and then you cheat again. Curula, Gregory Isaac, questa è The Border, 1977, in compagnia di Hugh Brown. If I could reach the border, then I would step across. So please take me to the border. No matter what's the cost, 'cause I'm leaving it. I'm a leaving out of Babylon. Leaving out, I'm leaving out to Rome. Leaving out to Rome, I'm leaving out to this land. This place could never be a home. Say we want, we want. If I could reach the border, I would live a little bit better. then I would live much longer. Every minute of the hour, some say, round the river Jordan, round. Some say, the round river Jordan, round. Let in the sea, the black pig, the blue, come make we stick with Uta, round. Me say, we leave King Pharaoh and him throne. Some say, we round the river Jordan, round. Some say, we round the river Jordan, round. What you do in a time like this, you got to watch your soul. I say, now what about me, I've got that to level being tough. Me say, roll the river Jordan around. Some say, if you roll river Jordan around. Until you see the high school of green is the color of a rainbow. All you got to do is keep on coming to me, though. You say, you never know what gonna really teach you so. When I see the rubber's on, I'll make you dip it down. Me say, roll the river Jordan around. Some say, if you roll the river Jordan around. Meet me up a bank of a beautiful river. Cause I'm on one fist, dip it, cross the border, leak of water. Me say, roll the river Jordan around. Me say, roll the river Jordan around. But I think the bumper song don't make you keep on rock your little song. So what the bumper app that to never be the tone. Me say, roll the river Jordan around. Con una produzione Joe Gibbs, un 12 pollici del 1978, e ancora una version in DJ style. Loro sono i Culture in compagnia di Nicodemus. Questa è Disco Train. My mama used to teach me this song. This is what she teach me. Carry sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa. Questa è Attica Blues con una puntata dedicata ai 12 pollici usciti in Giamaica. Noi andiamo avanti con una delle grandi hits di Freddie McGregor. Questa è Big Ship, prodotta da Lionel Thompson nel 1982 e mixata nella parte dub da Scientist a Channel One. Un brano davvero meraviglioso con una backing band di nome Roots Radix. Freddie McGregor. At lightning speed, yeah. Take a seat and wait till I'm ready. I'm coming, so hold on steady, yeah. Big ship sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ship sailing on the ocean. Whoa, whoa, yeah. Say big ship sailing on the ocean. Sailing on the ocean. Whoa, whoa, whoa, yeah. There's a time when the sea gets rough. The wind is blowing and the fishes keep moving. What are you doing, Mr. Man? Sit down, hold on tight. Get ready, cause we're sailing. Big ship sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ship sailing on the ocean. Get ready cause we're moving. Big ship sailing on the ocean. Whoa, whoa, whoa, yeah. Big ship sailing on the ocean. Just wait till I'm ready. I'm coming, I'm coming. Hold on steady, cause big ship sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ship sailing on the ocean. We got to come over. Big ship sailing on the ocean. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Say we're sailing on the ocean. There's a time when the sea gets rough. The wind is blowing and the fishes keep moving. What are you doing, Mr. Man? Sit down, hold on tight. Get ready, cause we're sailing. Big ship sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ship sailing on the ocean. noi ci spostiamo negli studi di Harry J per un 12 pollici che vede ora Sandy e una dub version curata da King Tubby. 1979, Poor Ranking. Bye. sì, arriviamo anche agli anni 80, alla dancehall, con uno dei suoi massimi esponenti. 12 pollici anche per Barrington Levy, questa è la sua 21 Girls. We'll be right back. E così siamo arrivati anche alla conclusione di questa prima puntata di primavera per Attica Blues. Noi vi salutiamo con un 12 pollici a firma di Black Guru. Questa è Spony Reggae, un brano originale racchiuso nell'album Red, e qui invece in una lunghissima versione 12 pollici. Noi vi ricordiamo sempre tutti i nostri podcast con le scalette che potete trovare in ogni momento sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. E vi ricordiamo anche che Attica Blues è presente sui social, su Facebook, su Twitter, su Instagram e su Spotify, dove invece è presente una ricchissima playlist di musica nera che più rappresenta questa trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Genius, name it. Then I want character. I say your boom right here and your bombs over this gon' be ready. Oh, I say your rock right here and your rock over this gon' be ready. I say your boom right here and your bomb over this gon' be ready. Augurarvi buon weekend. Noi per la diretta vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.